L'estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi. O dei, anche queste trasformazioni furono pure opera vostra. Quindi seguite con favore la mia impresa e fate che il mio canto si snodi ininterrotto dalla prima origine del mondo fino ai miei tempi. Tradotto in questo modo, il contenuto che ha portato Ovidio nel 8 d.C. a completare la stesura delle Metamorfosi. Lui è stato un autore fondamentale per quanto riguarda la classicità e il mito, il contenuto tra la mitologia e l'epica della classicità è stato trasformazione e metamorfosi a sua volta anche nell'essere interpretato, in quanto Ottaviano Augusto, l'imperatore, dice: ma come, tu porti gli dèi così con critica, anche abbastanza netta, forte? E quindi figurati se questa non è una critica anche al mio potere. Per cui te ne vai in esilio. E lo manderai in esilio in Romania a Tomi sul Mar Nero, per essere sicuro che fosse lontano, eh. La censura ha colpito e come. Però ne ha riconosciuto il genio. Questo è un capolavoro assoluto, del resto lo è. Le opere che troviamo in queste svariate epiche sono oltre che affascinanti, forti, anche molto sensuali in questo cercarsi tra le divinità, semidei, uomini, comuni mortali, donne bellissime e innamorate, come allo stesso tempo, a volte nell'aspetto negativo, invidiose e gelose, uomini crudeli, uomini eroici, e ne ha dato un panorama di una classicità e di un mito, di un'ispirazione veramente molto forte, che resta tutti i tempi, come del resto il mito è. Inizia così la stagione 2024-2025 in mostra. Inizia con un'apertura in contemporanea a Palazzo Te Mantova, dove queste immagini vengono riprese da Giulio Romano nel 520. Adesso mi informo meglio per quanto riguarda la data esatta, 1520. Quindi Gonzaga, con un grandissimo gusto, hanno fatto in modo. Non abbiamo la televisione? Beh, noi vediamo gli episodi della metamorfosi e teniamo per sempre. E restano, ad esempio, la Sala dei Giganti, come ho già citato, che è immagine e immagini di capolavori che restano ben stampati anche nella nostra visione, in una micro e macro sensazione molto forte. Picasso a Palazzo Te, poesia e salvezza. Inizia ufficialmente oggi, sarà fino al 6 gennaio 2025. Ho avuto modo di portare in frequenza la voce di Stefano Baia Curioni, che è il direttore della Fondazione Palazzo Te. La mostra, a cura di Annie Cohen Solal, in collaborazione con Joan Poplard, si presenta come una produzione principale del programma culturale 2024 dedicato al tema delle metamorfosi. Beh, se c'è un personaggio metamorfico e che si è ispirato anche, non so, faccio un esempio, il mito del toro, il mito che poi è arrivato nella tauromachia a Creta per poi dopo fino ai giorni nostri, è una figura affascinante, ne è stato addirittura poi portato da Zeus come costellazione, il segno del toro. Arianna che ne è preda, Teseo che con il famoso filo che lascia traccia per raggiungerla prima di sconfiggere il Minotauro, ovviamente, per arrivare a liberare la protagonista Arianna. Anche questo, ovviamente, nelle metamorfosi, come tante altre situazioni che hanno un fascino molto, molto capace di rapire. A proposito di termini che nelle metamorfosi vengono riportati più volte, è la prima volta per alcuni capolavori di Pablo Picasso in Italia, con una particolare concentrazione su quello che è stato il viaggio a Parigi intrapreso dal grande maestro nel 1900. Beh, Picasso matura il desiderio di andare a Parigi ed è incoraggiato dall'entusiasmo dei suoi amici del bar, del caffè, per meglio dire, non il bar, che mi sembra molto immediato, con tutto il rispetto, dei Quattro Gatti. Questo che è diventato un po' una sede, un ritrovo per avere conversazioni. Immaginate, no? Mi viene in mente Midnight in Paris di Woody Allen, con grandi artisti che si ritrovano, e quando questo protagonista proiettato vede: ma come, quello è Pablo Picasso? Questo è... Eh sì, ma dovevi vedere quando qui questo posto era frequentato da Monet. Questo è un minore, ecco. Questa è l'idea sempre, no? Che a volte dà inciampo nella critica, in tutte le espressioni artistiche. Ma una volta... Hey baby, io per primo, è normale secondo me avere questa visione, a volte anche azzeccata, non sempre troppo frettolosa. Comunque il giovane Pablo, in compagnia dell'amico Carlos Casagemas, arriva nella capitale francese. È autunno, è una mattina nebbiosa, fine settembre, quindi 1900, alla Gare d'Orsay, indossando, pensate, scarpe grosse, un feltro da moschettiere e trasportando con sé un cavolletto, una tavolozza e una scatola di colori. Picasso va giù di testa, completamente, dice: questo è... tutti i tempi, ecco, lui dice tutti i tempi. Qui non è mica come in Spagna. Pensate che anche lui, a proposito di commenti un po' frettolosi, non è frequentata da pittori locali che dipingono i soliti quadri idioti, oddio. A differenza di Barcellona, altro che, non è mica, bensì segnata da una grandiosa abbondanza di stimoli artistici animati dalle mostre anche retrospettive. E qua va a citare Delacroix, va a citare Courbet, va a citare Ingres, questi grandi che hanno preceduto alla collezione del Museo del Louvre, alle strade brulicanti di botteghe e gallerie. Quindi la Ville Lumière per lui diventa veramente qualcosa di oltre che i tutti i tempi. E pensate che descrive a un amico catalano la vita che conduce nella capitale francese, e poi ha intenzione di esporre al Salon, la vita notturna trascorsa tra i caffè concerto, i teatri. E poi aggiunge: se vedi un altro amico, Pisso, digli di venire, perché gioverà la salvezza della sua anima, e digli anche di mandare al diavolo Gaudì e la sua sagrada famiglia. Qui ci sono veri maestri dappertutto. Non le mandava a dire Picasso, Tried everything I know, now I got to go. I gotta go. I tried it out, cried it out, we talked it out, we fought it out, and I bowed it out. Now there's nothing left to do but walk on out. Hey, how can I? dialogo con la sede espositiva, con il capolavoro Le Metamorfosi. Poi ci sarà la citazione anche perché Giulio Romano ha portato anche parti di Apuleio. Insomma, vedere come i capolavori tutti i tempi, grazie a una sede espositiva stupenda, trovano conversazione tra di loro. Aggiungiamo l'aspetto letterario della poesia di un Picasso con un'aire poetica che io sinceramente non sapevo, non mi aspettavo che poi. Infatti lui fu accolto a Parigi immediatamente da alcuni poeti che non avevano ancora raggiunto una fama come poi avranno nei loro percorsi. E che dire, è il momento di entrare in mostra, sì, è il momento di partire con Stefano Baia Curioni per conoscere nel dettaglio questa esposizione che ha un titolo che già dà l'idea: Picasso a Palazzo Te, poesia e salvezza. La curatela è di Annie Cohen Soalal e sarà fino al 6 gennaio del 2025. E quindi con Stefano Baia Curioni iniziamo per saperne di più. Fondazione Palazzo Te, siamo con il direttore Stefano Baia Curioni, al quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Arriva anche Picasso a Palazzo Te con un'esposizione, poesia e salvezza. È di intersezione importante con la sede espositiva, già di per sé molto molto prestigiosa. E appunto direi di iniziare dal titolo della mostra, poesia e salvezza. Perché a lei la parola a tale proposito, direttore? Ma questa esposizione che si collega alla mostra che si chiama Picasso Straniero a Milano, a Palazzo Reale, è una mostra che parte dalla ricerca svolta da Annico El Solal, che è una ricercatrice e un'attrice francese, che si è occupata di Picasso visto come un migrante, cioè visto come nei panni di un giovane catalano, diciamo sprovvisto di grandi mezzi, che arriva a Parigi senza poter parlare francese e che viene accolto da una comunità un po' di marginali, se vogliamo, anzi certamente di marginali, tra cui molti poeti, e quindi viene in qualche modo salvato nel suo arrivo a Parigi dai poeti. Dopodiché ne diventa amico, illustra i loro libri e poi diventa lui stesso un poeta negli anni in cui la vita gli chiederà di resistere, diventerà un poeta, scriverà oltre 300 poesie e di fatto poi all'interno di questa sua attività inventerà dei personaggi metamorfici, in particolare il Minotauro come alter ego della sua figura, perché il rapporto con la poesia per Picasso è come la porta di una relazione intensa con il presente. Cioè Picasso, è come dire, lo si legge dalle sue poesie, non ha paura del cambiamento, accetta di cambiare, accetta la realtà che cambia continuamente davanti a lui, e lui è metamorfico nella sua pittura, così come viene anche descritto e visto nella mostra. Il rapporto con la poesia per lui è al tempo stesso libertà, metamorfosi e salvezza. Troveremo anche il concerto del Rugnez qui riportato all'interno del disco chiamato Concerto di Jim Hall. Ho portato alcuni personaggi da Metamorfosi, beh, Picasso con i vari passaggi in ambito artistico, abbiamo il cubismo, il periodo blu, tante realtà di percorso che ben si addicono, e poi anche con l'immagine che ho da subito avuto nell'immediato, cioè la figura del Minotauro, che mi ha riportato nell'immaginario un motivo di dialogo assolutamente con il grande Pablo Picasso. Saranno 50 opere, l'aspetto di ispirazione poetica è una parte ulteriore di valore aggiunto a questa ispirazione totale. L'incontro con poeti, lui arriva come un migrante, ha detto giustamente il direttore della sede espositiva di Mantova, arriva come un migrante, arriva, non conosce la lingua, ha con sé un cavalletto, i colori e tanta voglia, tanto entusiasmo, deve sapere, deve immergersi completamente in questo clima. E appunto in questa metamorfosi un po' lui si identifica anche nel mito famoso del Minotauro. Certo, è una figura mitica il Minotauro, che è propria delle metamorfosi, è nelle metamorfosi di Ovidio, anche la sua origine, insomma. Quindi in questo senso è una figura che dialoga con il palazzo, e del resto Picasso dipinge e disegna le metamorfosi di Ovidio specificamente, quindi entra indirettamente in dialogo con Giulio Romano. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo deciso di produrlo, perché l'anno, tutto l'anno di Palazzo Te è dedicato al tema della metamorfosi, sia perché la metamorfosi è, come dire, il leitmotiv del palazzo, tutto dedicato alla metamorfosi di Ovidio e a quelle di Apuleio, palazzo che è abitato dal senso della trasformazione, ma anche perché ci sembra che il cambiamento, il rapporto con il cambiamento sia veramente una necessità per noi oggi della contemporaneità, cioè dobbiamo un po' imparare a vivere e a, come dire, essere felici nel cambiamento, perché abbiamo un destino di cambiamento davanti a noi molto importante. Sì, è un'esigenza che ci viene proposta, non dico imposta perché non mi piace questo termine, ma proposta. Quindi, entrando in mostra, quante opere troviamo? Sono circa 50 opere, ci sono manoscritti, poesie, disegni, ci sono quadri che vengono dal Museo Picasso, è una coproduzione fatta con il Museo Picasso di Parigi, che ha messo 17 lavori dentro nella mostra, e poi con la famiglia Picasso, perché abbiamo avuto proprio moltissime opere anche non viste mai in Italia, che sono state prestate direttamente dalla famiglia Picasso. G-Moll, concerto di Arrugnez, qui interpretato in un modo da pelle d'oca, Poi quando entra anche il sax contralto di Paul Desmond, alla tromba Chet Baker, insomma un all-star game di... Pablo Giulio Ovidio, pensate il percorso nei tempi, Abbiamo il mito, la classicità nell'epica del grande autore Ovidio, dopodiché abbiamo Giulio Romano, che qui vengono elencati nella prima sezione, che ha dato motivo di luce, bellezza, interpretando le stesse metamorfosi. Giulio Romano, un autore, un pittore, un maestro. E ovviamente Pablo Picasso, che come avete sentito anche lui ha dato interpretazione. Picasso straniero a Parigi? Ascolto dai poeti e soprattutto, oltre che l'ascolto, c'è l'accoglienza. Quando Picasso diventa poi poeta, vi è una salvezza. Come? Con la strategia della metamorfosi. E allora, entriamo in mostra. Il percorso comincia con la frigoriglia. La prima stazione è una stazione che in qualche modo mette in relazione con questi disegni delle metamorfosi di Ovidio, che sono disegni molto, molto stilizzati, che Picasso fa per Albert Schirat, che è un editore francese, nel 1931. Poi questi disegni sono affiancati a un bellissimo vaso che ci è stato prestato dalla Fondazione Rovati, che è un vaso etrusco mai visto, mai esposto, che è un vaso che qua è rappresentata l'animale metamorfico per eccellenza, cioè la farfalla, ed è un vaso che in qualche modo racconta la necessità della metamorfosi dopo la vita, perché la farfalla, come dire, è come l'anima che vola in cielo dopo la morte. E da lì si passa a una stanza in cui si raccontano i rapporti di Picasso con gli amici poeti, con Max Jacob che gli legge la mano e predice il suo futuro di grande artista, e altri contatti con poeti importantissimi della Francia di quegli anni, tra cui Apollinaire. E poi si procede in un'altra sezione in cui si fanno vedere le poesie di Picasso, e che sono anche dei disegni, dei quadri, perché sono poesie dipinte, sono poesie animate. Dopodiché si passa a far vedere come il rapporto con la poesia si traduce nell'istanza della metamorfosi, con una serie di quadri importantissimi che si concludono nell'ultima sezione, in cui c'è il Minotauro, con un bellissimo Minotauro che viene da Roma, da Palazzo Altemps, dal Museo Nazionale Romano, che conclude la mostra insieme a un Minotauro di Picasso. Creature metamorfiche per antonomasia è la farfalla. La colonna sonora di un volo, beh, chi meglio di Paul Desmond ce la può dare? Qui entra Chet Baker, che chiaramente, come ho detto, uno stargame in questo capolavoro del concerto, però l'assolo di Paul Desmond dà veramente l'idea della breve vita di questo volo che tocca degli apici, che discende per poi risalire e perdersi in questo infinito capolavoro. E quindi l'eterogeneità è indubbiamente un filo conduttore dell'esposizione, tra un aspetto letterario, l'aspetto poetico, l'estetica. Siamo multidisciplinari, certo, certo. Sì. Noi viviamo interdisciplinari, no? Sì, ma in questo caso è un aspetto multidisciplinare bello, perché molte volte si può cadere anche in qualcosa di forzato, ma in questo caso da quello che sto... È proprio connaturato. Esatto. Il rapporto con la letteratura, ma anche Giulio Romano è stato ispirato da Ovidio, dalle traduzioni di Ovidio del suo tempo, quindi il rapporto tra architettura, letteratura, pittura... sono fondamentali. Sì, con il dialogo con la sede espositiva, poi, che già di per sé è uno splendore, diventa valore che complementa tutto ciò con la sua originalità. Fino a quanto sarà in mostra? Fino al 6 gennaio. Picasso a Palazzo Te, poesia e salvezza. Io ringrazio tantissimo per il tempo dedicato a Radio Città Fujiko del direttore della Fondazione Stefano Baia Curioni e appuntamento a un'altra puntata con la rubrica In Mostra. Grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata. Mio cuore spagnolo, Chick Corea, da uno dei suoi dischi più belli, My Spanish Heart. Beh, anche Chick Corea, ho detto che portavo personaggi dalle metamorfosi in musica, dal jazz alla fusion, al jazz rock. Grazie al direttore Stefano Baia Curioni della Fondazione Palazzo Te a Mantova. Spero di non aver fatto refusi dicendo presidente. Spero ben di no, direttore della Fondazione Palazzo Te di Mantova. Vi lascio in buona compagnia ricordando che l'esposizione con cui abbiamo aperto e sta aprendo adesso a Mantova è Picasso a Palazzo Te, poesia e salvezza in quel di Mantova. Alcuni consigli per un bel weekend a Mantova. La metamorfosi dei tortelloni, tortellacci o cappellacci, insomma, che ognuno vede a seconda della tradizione, se vogliamo. In questo caso io consiglio Retro Bottega, che adesso vi dico anche dov'è, guarda. È in via Giovanni Battisti Spagnoli 8, è in centro a Mantova. Beh, è un villato. Per cui, quando è un villato, pubblicità ci sta, ok? Abbino sempre anche questo abbinamento per un bel weekend. Potete da lì a breve poi raggiungere Valleggio sul Mincio, che è un altro, il piccolo borgo, poi è uno delle chicche, delle bellezze assolutamente da non perdere. Comunque l'aspetto enogastronomico nel mantovano è da non sottovalutare. Ci mancherebbe. Per completare la mostra su Picasso a Palazzo Te, poesia e salvezza. Tra poco andiamo per un'altra fondazione che anche lì dal punto di vista enogastronomico, caspita, è un bel derby, eh? Siamo a Mamiano di Traversetolo, la sede espositiva di cui parleremo anche nelle prossime puntate, ha un'anticipazione molto molto particolare e soprattutto prestigiosa. Ovviamente ne daremo approfondimento assieme al direttore Stefano Roffi, che sentiremo tra poco. Buon ascolto in mostra su Radio Città Fujiko ogni giovedì dalle 8 circa.